GR Europa. E allora, finestra che si apre sull'Europa, buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. E guerra aperta tra Unione Europea e Cina. Bruxelles ha deciso di imporre dazi ai pannelli solari cinesi. Pechino ha risposto oggi con l'apertura di un'indagine antidumping nei confronti del vino importato dall'Unione Europea. Chiederò alla Commissione di prendere posizione, dice ora Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Faremo immediata reazione nei confronti della Commissione, al Governo europeo, alla Commissione europea, per prendere iniziative, quindi avere una politica da parte della Commissione più aggressiva nei confronti dei problemi del commercio. È la stessa cosa che abbiamo detto nei confronti degli Stati Uniti quando poi abbiamo risolto il problema della vescicolare suina che ha aperto il mercato per i nostri prosciutti, eccetera. Analogamente la Commissione deve mostrare la stessa grinta, la stessa volontà per evitare che la Cina porti in questo terreno problemi alle produzioni europee, in particolare per il vino. La Lettonia sarà con ogni probabilità il 18° paese ad entrare nella zona euro a partire dal 1 gennaio 2014. Oggi è arrivato il via libera della Commissione. In attesa dell'Ecofin di luglio toccherà anche al Parlamento europeo pronunciarsi. La Lettonia ha affrontato uno dei più duri programmi di risanamento imposti da Bruxelles, ha ridotto il suo deficit all'1,2% e il debito è al 41% del PIL. Intanto il Parlamento europeo sta proseguendo la propria battaglia per assicurare che il bilancio dell'Unione per i prossimi 7 anni sia adeguato per la ripresa economica, ha detto l'eurodeputato Giovanni Lavia, relatore del bilancio europeo per il 2013. Al centro del dibattito c'è anche una politica fiscale comune, un accordo a portata di mano, secondo l'eurodeputato Pino Arlacchi. Tutta la grande area delle frodi finanziarie, del riciclaggio tramite i paradisi fiscali e la uniformità per quanto riguarda il segreto bancario o i conti anonimi e numerati, ecco, questa è una zona in cui non bisogna parlare di armonizzazione, ma bisogna parlare di disposizioni e leggi comuni tra tutti gli stati dell'Unione. Mettono a rischio la stabilità finanziaria dell'Unione Europea, ci si può arrivare in tempi anche molto brevi, sono certo che il prossimo Parlamento lo farà. Nessuno può più tollerare un riciclaggio di capitali sporchi tra un paese europeo ed un altro. Sarà investito intanto anche il Parlamento europeo della questione Ilva di Taranto. Il fondo antidiossina Taranto Onlus ha consegnato questa mattina alla Digos un esposto. Il documento è correlato da 2 video che metterebbero in luce presunte violazioni di diverse prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Entrambi i video saranno consegnati anche al Parlamento europeo entro questa settimana. E sotto esame sono anche i parlamentari europei. Il segretario nazionale del PSI ed ex eurodeputato Riccardo Nencini dovrà restituire al Parlamento di Strasburgo oltre 455.000 euro di spese di viaggio e di assistenza di segreteria indebitamente rimborsate durante i 5 anni dal 1994 al 1999 passati a Strasburgo e Bruxelles. Lo ha deciso il Tribunale della Corte di Giustizia. Nel 2010 a denunciare Nencini fu l'ufficio antifrode dell'Unione Europea. Ci fermiamo qui anche per oggi. Ancora un buon pomeriggio da Anna Migliorati. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.